la cosa interessante, anche ricollegandomi un po' a Olmo e soprattutto a quello che mi è stato chiesto di parlare in questo momento, è appunto il concetto di urbanità, quindi l'idea appunto di questo scorrere della vita all'interno dello spazio urbano, che come è già stato detto più volte, prima caratterizzava i nostri tessuti, caratterizzava il fare la città. Oggi, come vediamo, c'è un attacco fortissimo negli spazi sociali, c'è un attacco che sono gli spazi sociali che frequentiamo giornalmente, molti di noi, ma sono anche gli spazi sociali che vivono di tutti, quindi le piazze. Spesso quello che manca e che oggi abbiamo già visto con Firenze No Cost e anche adesso appunto la relazione tra i diversi spazi sociali. Ed è interessante parlare oggi qui perché appunto si parla all'interno di un progetto, quello di Rete 7, una rete. Quello che viene da pensare è che appunto sempre più ci sia bisogno di ripensare il quotidiano e anche di comunicarlo, quindi creare momenti di comunicazione fra diversi spazi sociali che sono quindi spazi sociali ricostruiti, come ad esempio la polveriera. Com'è che questo spazio sociale, le pratiche che stanno al suo interno, com'è che il risultato di queste giornate, appunto di 17, queste tre giornate qui a Firenze, usciranno da queste mura? Com'è che raggiungeranno altre persone? Com'è che un tema che di base, quello della turistificazione, della sottrazione del libero quotidiano di persone, com'è che questo può diventare di fatto un momento di confronto e di vera sensibilizzazione e di ricostruzione del quotidiano? Cosa significa oggi ricostruire il quotidiano? Io penso, credo di pensare, sono in esplorazione, che sicuramente un metodo oggi, visto gli strumenti con cui anche i grandi capitali finanziari, con cui le istituzioni che poi facilitano l'operato degli stessi, sono strumenti spesso legati alla pubblicità, sono strumenti spesso legati alla propaganda, sono strumenti spesso legati alla norma dello spazio pubblico, alla norma del nostro vivere. Com'è che si può sovvertire o comunque riuscire ad immaginare anche per un breve momento quegli spazi, quindi aumentare, spostare quel limite che la norma ci impone? Io penso che questo si possa fare in tante maniere, sicuramente. C'è la pratica quotidiana del vivere, quindi di portare avanti spazi sociali. Poi c'è la pratica di fare cultura e la pratica di fare arte e di fare azioni all'interno dello spazio, e anche di sovvertire i contenuti e quindi di creare una narrazione altra di quello che poi ci accade, perché quello che ci accade è completamente in sordina, nessuno sa quello che succede, o comunque c'è un'esclusione da parte dei media, della pubblicità. Domani all'Emerson, a fianco dei tavoli di discussione, ci sarà anche un laboratorio artistico. Questo laboratorio artistico, di cui abbiamo appunto l'ospite stasera, che è Spoto Facit, questo artista romano che si è vissuto un po' gli anni 90 a Roma. Sì, viene pure qui, mi piacere se viene qui a dire due parole. Volete che faccio 4 passi in avanti e raggiungo. Raggiungi, vieni qui. Manifesta. Perché se già detto che si parte appunto dall'idea, appunto anche il morcio che si farà domani in Spoto, di sovvertire il nuovo ordine urbano o comunque di immaginarsi. Quindi domani l'idea di esplorare e considerare effettivamente cos'è questo nuovo ordine urbano, che significato ha parlare di nuovo ordine urbano oggi, e quindi di fatto com'è che noi possiamo attaccare, immaginare, rinarrare, ricostruire un'alternativa quotidiana che passi anche dall'arte, di cui l'arte si faccia mediano, strumento, rappresentazione. E ora ti passo la parola e dici un pochino cosa fai.